tra il velo e il voto. Le elezioni in Afghanistan sono un appuntamento storico per un paese che vive in un perenne stato di occupazione, ma la consultazione elettorale di domani si svolgerà sotto le minacce dei signori della guerra e dei talebani. Andare o meno a votare è un dilemma per il popolo afghano. Il clima di strana tranquillità della vigilia cela il rischio di brogli e violenze contro gli elettori, in particolare contro le donne, come ci ha raccontato Simona Lanzoni, responsabile progetti per la Fondazione Pangea, appena rientrata dall'Afghanistan. C'è un clima di strana tranquillità, perché comunque non si muove niente, le attività delle ONG sono state bloccate e di tutte anche le Nazioni Unite. In che senso bloccate? Beh, sono state ibernate per qualche giorno, primo perché c'è paura di attentati e comunque gli stranieri sono un target, secondo perché comunque c'è una specie di occupazione militare per la sicurezza, per mantenere appunto la sicurezza a Kabul come del resto. Quanti cittadini afghani andranno a votare? Si dice dalle statistiche una decina di milioni, dopodiché insomma si vedrà. Non credo per esempio che le donne, e parlo in specifico delle donne perché lavoro con le donne, andranno tutte a votare anche se si sono registrate, perché in realtà loro hanno paura delle conseguenze. Per esempio noi che lavoriamo come Fondazione Pangea con le donne, sia attraverso il microcredito che la formazione, molto spesso parliamo con loro e abbiamo parlato delle elezioni, e parlando delle elezioni appunto con loro ci hanno sempre raccontato delle loro paure, del fatto di poter essere seguite, di poter avere conseguenze anche dopo qualche giorno dalle elezioni, per il semplice fatto che hanno riconosciuto che sono andate a votare, hanno trovato il loro voto, che ci siano delle spie, delle infiltrazioni. È molto strano perché poi loro quando raccontano ti fanno ci tagliano il braccio, ci frustano, in realtà sono semplicemente cose che loro hanno viste nel periodo dei talebani o comunque di questi 23 anni di guerra e che le riraccontano, cioè tirano fuori le loro paure semplicemente pensando a quello che hanno già visto e vissuto. Però c'è un rischio reale per le donne che si recheranno a votare in Afghanistan? Decisamente sì, perché ci sono state varie volte minacce a donne che, o a centri dove c'era la registrazione per la carta elettorale. Molte donne, per esempio, non so, ho saputo di storie di donne che raccontavano che hanno fatto la carta elettorale malgrado il marito non voglia, perché comunque anche i mariti rischiano. Per esempio durante le elezioni, il programma elettorale, ci sono state in giro donne afghane che andavano a sensibilizzare le donne, a spiegare che cosa sono le votazioni. Ci sono donne che sono state uccise per questo. Di sicuro sono morte più di una trentina di persone che hanno lavorato, di persone afghani locali che hanno lavorato sulla questione elezioni, che quindi andavano nei villaggi a sensibilizzare, e molto spesso poi purtroppo non si dà rilevanza a quello che succede in questi paesi. Le donne afghane hanno idea, consapevolezza di quello che è il diritto di voto? Non tutte, però devo dire che moltissime organizzazioni locali, ONG appunto per esempio con cui noi lavoriamo, hanno lavorato proprio in questo senso, hanno fatto educazione civica, hanno spiegato che cos'era il voto, perché il diritto di voto è importante, perché queste elezioni sono importanti, perché malgrado tutta la corruzione e i limiti di queste elezioni, comunque è la prima volta che si va al voto in Afghanistan. Per quanto riguarda invece poi il problema dell'alfabetizzazione, queste donne sono state escluse dalle scuole, dalla didattica per anni. Sì, questo è assolutamente uno dei tanti altri problemi della registrazione o del voto, perché la maggioranza delle donne sono analfabete, come anche gli uomini, non è che loro sono più preparati. Però il problema è proprio questo: nel momento in cui si andrà alla votazione, donne che comunque sono state escluse sia dai talebani, che hanno chiuso completamente le scuole alle donne, ma comunque da una società abbastanza conservatrice che non permette in generale alle donne di istruirsi, nel momento in cui si andrà al voto sarà un po' difficile, perché come faranno loro a conoscere quali sono i candidati che devono eleggere? Le donne sono abbastanza confuse, sono spaventate, non sanno quello che... Più che altro non credono che queste elezioni possano cambiare realmente qualcosa nella loro vita, dicono semplicemente che questa serve a qualcun altro, no? Le elezioni servono a qualcun altro e che comunque la loro vita non cambierà, continueranno a essere poveri, continueranno ad essere analfabete, ed è proprio questo perché che noi come Fondazione Pangea cerchiamo di intervenire un po' per riempire questo vuoto, noi come tante altre organizzazioni umanitarie, riempire un vuoto enorme tra una classe politica che comunque continua a pensare ad armarsi e a poter, come dire, raschiare il fondo del barile, perché in Afghanistan la povertà è altissima e dall'altra parte tutta questa popolazione immensa di donne come anche di uomini poverissimi. Essere una donna in Afghanistan è difficile, anche dopo la caduta del regime talebano. Non c'è stato un reale cambiamento delle condizioni di vita delle donne afghane. Cristiana Scoppa, responsabile della comunicazione di Aidos. Sicuramente c'è una maggiore possibilità di poter dire delle cose. Il fatto che dopo la guerra, comunque, che è stata senz'altro un'esperienza traumatica, il periodo di ricostruzione abbia dato un minimo di ufficialità all'idea di migliorare la condizione delle donne è un vantaggio. Nei fatti, nella pratica, la vita delle donne non è cambiata molto, purtroppo. Le donne continuano a portare il famigerato burka perché si sentono più sicure, le aggressioni contro le donne che non lo portano spesso sono, insomma, continuano a ripetersi, e questo chiaramente è una cosa che non fa notizia, però certamente rende difficile la vita delle donne. La vita nelle case continua a essere essenzialmente una vita femminile, la vita pubblica non è molto accessibile per loro, no? E le difficoltà che ci sono per avere delle cose banali come i servizi sanitari, dei servizi sanitari per la maternità, il parto, continuano a essere tali, nonostante gli sforzi anche di organizzazioni italiane come InterSOS, che ha aperto un ospedale con fondi del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, però certamente tutto questo è ancora molto condizionato dal clima di instabilità, di insicurezza, dal rischio di aggressioni che c'è costantemente. Le missive, le email che arrivavano da persone che lavoravano sul posto spesso descrivevano questo clima di proprio di insicurezza, le esplosioni che si sentivano a pochi metri, quindi la sensazione comunque di essere sempre a rischio. L'Afghanistan l'8 marzo 2003 ha ratificato la Convenzione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne. È certamente una scelta importante, ma ancora manca un'effettiva tutela nel paese. Roberta Calizzi, responsabile coordinamento Sud Asia per Amnesty International. Se da un lato comunque sono stati riconosciuti i diritti delle donne, dall'altro proprio manca una effettiva tutela. Perché certo non possiamo trascurare, anzi sono apprezzabili i primi tentativi di ritorno alla normalità, perché sono stati riaperti dei centri estetici, adesso le donne possono anche praticare sport anche se lo possono fare a porte chiuse, quindi senza il sostegno dei tifosi eccetera. Tra l'altro è stato di nuovo pubblicato, è stata pubblicata la rivista Malalai, che è una rivista prettamente femminile. Quindi ovviamente questi sono segni positivi da tenere presente, però è anche vero dall'altro lato che dopo le ricerche che Amnesty ha condotto tra il maggio e giugno del 2002, quindi subito dopo l'inizio dei bombardamenti, queste ricerche che ha effettuato non soltanto a Kabul ma in tutte le altre province dell'Afghanistan, in realtà ha potuto notare che la violenza domestica è aumentata, così come sono anche aumentati i matrimoni forzati e i matrimoni con le minorenni. Quindi questo, insomma, ovviamente fa capire di come la donna in realtà non vive in una condizione di sicurezza, sia appunto nella famiglia, nell'ambito della famiglia, ma anche proprio nel paese. Perché se da un lato è vero che sono state eliminate quelle norme che limitavano la libertà di movimento, però dall'altro lato le poche donne che riescono ad accedere alla giustizia, anche qui subiscono una forte discriminazione. Le donne non possono vendere i loro prodotti al mercato, non possono prendere liberamente un taxi se non sono accompagnate da un parente maschio, detto Maram, O ancora, cosa veramente assurda che continua a ripetersi, è il fatto che se una donna viene vista per strada con un uomo che non è un parente, quindi con un estraneo, viene subito prelevata e portata in un centro di detenzione e viene sottoposta a un esame accurato per vedere se ha avuto un rapporto sessuale con quest'uomo con cui è stata vista. Quindi purtroppo la situazione è questa. Però speriamo soprattutto che le donne possano, adesso come adesso, avere l'opportunità veramente di insomma di esprimere il loro parere finalmente. Un dato è certo però, domani le donne afghane potranno votare, per moltissime di loro sarà la prima volta e lo faranno a loro rischio e pericolo, ancora Roberta Calizzi. Dopo 23 anni di guerra, donne di diverse età che hanno vissuto comunque tutte quante la guerra, dalla più vecchia alla più giovane, avranno appunto l'opportunità di votare, però anche qui bisogna fare una distinzione, una riflessione insieme, perché tutte le donne che vorranno votare domani, però sanno di farlo con tutte le minacce e ritorsioni poi che possono subire. Quindi sì, è vero che ci sono le libere elezioni in Afghanistan finalmente, però in realtà non sono tanto libere poi di fatto, perché appunto le donne, così come era anche successo proprio durante i lavori dell'assemblea della Loya Jirga per redigere appunto il documento della Costituzione afghana, anche in quel caso le donne avevano subito delle forti minacce. Quindi ovviamente si teme che questo possa accadere anche per le elezioni di domani, però la cosa importante è che le donne comunque, nonostante questa situazione, perché c'è ancora una situazione di insicurezza nel paese, però nonostante questo vogliono partecipare attivamente, quindi nonostante le minacce, anche perché da un lato sono comunque state abituate purtroppo in tutte le cose della loro vita, in tutte le loro attività, quindi da quella più semplice, quella che magari che richiede un determinato impegno, però loro sono sempre state abituate ad agire non in maniera libera ovviamente, no? Ma sempre facendo attenzione a tutto quello che facevano e che c'era intorno, proprio perché hanno avuto sempre questo controllo da parte dell'uomo, che poteva essere il padre in famiglia, ma poi questo controllo passava automaticamente in mano al marito, quindi non sono state mai libere veramente. Quindi queste elezioni anche dal punto di vista psicologico sono una grande esperienza, insomma un bell'atto di forza da parte delle donne, questo sicuramente. L'appuntamento elettorale resta comunque fondamentale, una sorta di prova generale della democrazia. Cristiana Scoppa, responsabile Aidos. Diciamo che è per noi sempre importante. Quando abbiamo festeggiato i 50 anni del voto in Italia, e ci sono state tantissime ricerche che sono state fatte all'epoca, tantissimi commenti, questa esperienza del voto la prima volta e di quanto poi le donne si sono dimostrate consapevoli, partecipi, pronte anche a essere autonome nelle loro scelte. Questo, per poter fare questo ci vogliono anche altri strumenti, cioè si può votare e partecipare realmente quando si possiede l'istruzione necessaria, l'educazione necessaria, le informazioni necessarie, l'autonomia necessaria, la possibilità di muoversi letteralmente, no? Per andare al seggio, che non è sempre detto che questo esista in Afghanistan. Magari quante famiglie prevedono ancora che l'uomo accompagni la moglie, se l'uomo decide che non l'accompagna lei non potrà andare a votare. Anche delle cose così pratiche, no? Possono condizionare questa prima volta. Diciamo, costruire queste precondizioni è l'obiettivo delle istituzioni femminili che sono state fatte in Afghanistan. Questo tentativo adesso di formare un governo che non è nominato ma che è eletto è molto importante, perché significherà che le scelte nominali di parità, di progresso delle donne diventeranno delle scelte espressione anche della volontà popolare. Bisogna vedere se poi chi sarà eletto manterrà questi obiettivi e farà in modo che sarà più facile un giorno per le donne andare a votare con tutti gli strumenti necessari per esprimere un voto consapevole, libero e veramente proprio. Sonia, amisnet.org.